America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Beh, se doveva esserci un altro colpo di scena, lo abbiamo avuto ieri sera. L'FBI ha deciso che le email, le nuove email scoperte una decina di giorni fa, non rappresentano alcun problema per Hillary Clinton e ha comunicato al Congresso che non cambierà la decisione di archiviare l'inchiesta condotta contro il candidato democratico nel momento in cui era segretario di Stato. Dunque, una novità importante, fondamentale, una nuova ennesima sorpresa in questa corsa sempre densa di suspense, una notizia che avvantaggia naturalmente Hillary Clinton mentre i due concorrenti stanno correndo sul filo di lana verso le elezioni di domani. Sentiamo intanto James Comey. I'm here to give you an update on the FBI's investigation of Secretary Clinton's use of a personal email system during her time. Ecco, Comey ha inviato una lettera al Congresso, una lettera formale in cui annuncia, nello stesso modo in cui aveva annunciato ai deputati una decina di giorni fa, che avrebbe potuto riaprire l'inchiesta. Ecco, in questo caso annuncia che l'inchiesta non sarà riaperta, che gli agenti dell'FBI hanno lavorato giorno e notte per vagliare decine di migliaia di email e non hanno trovato per ora alcuna novità. Dunque il grande polverone sollevato una decina di giorni fa, che molti definirono inutile, si rivela per quello che era un passo non necessario da parte dell'FBI. Come hanno reagito i candidati? Beh, possiamo immaginarlo. Sentiamo prima Hillary Clinton. Well, I did spend 4.5 hours next to Donald Trump in those debates, proving conclusively I have the stamina to do. Ecco, Hillary, avete sentita, ieri era in comizio a Miami, la sua campagna ha comunicato di essere profondamente soddisfatta dagli sviluppi sull'inchiesta dell'FBI e di non aver mai dubitato che l'intera vicenda si sarebbe conclusa in questo modo. Tra l'altro Hillary ieri era in campagna con Cher, si è contorniata negli ultimi giorni di attori, cantanti, politici, ha condotto una campagna elettorale di gruppo, mentre Donald Trump era sempre più solitario, soprattutto in compagnia del suo candidato al la vicepresidenza. Una battuta c'è stata di Cher, ha detto: se Trump vincerà dovrò lasciare questo pianeta, non l'America ma addirittura il pianeta. Come ha reagito Trump? Sentiamolo. Today is the best evidence ever that our system is absolutely totally rigged. It's rigged. Trump irritatissimo, fuori di sé, è tornato alla teoria del complotto. Una decina di giorni fa aveva espresso parole di apprezzamento per la trasparenza con cui Comey aveva deciso di considerare l'apertura, una riapertura dell'inchiesta e di vagliare nel dettaglio le email di Hillary. Beh, oggi è tornato alla tesi del complotto, delle elezioni truccate. I candidati, devo dire, in questi giorni si sono incrociati, continueranno ad incrociarsi. Oggi Hillary Clinton, vi ho detto, era a Miami, oggi sarà a Raleigh in Carolina del Nord, a Grand Rapids in Michigan, poi il gran finale a Filadelfia, dove parlerà col marito Bill, con Barack Obama, con Michelle Obama. La distanza fra i due candidati a questo punto è minima, proprio per l'effetto negativo per Hillary Clinton dalla ipotesi presunta di riapertura di questa inchiesta. E non è chiaro quale sarà l'impatto della notizia di ieri, ma certamente consentirà a Hillary, che si trovava marginalmente in vantaggio, attenzione, sia sul piano dei voti elettorali che su quello delle preferenze nazionali, consentirà a Hillary, dicevo, di recuperare probabilmente un pochino del terreno perduto. Ecco, detto questo, in situazioni di questo genere il risultato lo conosceremo soltanto a urne chiuse, e cioè domani. E gli Stati Uniti, devo dire, si trovano a un bivio e saranno gli elettori domani a dover scegliere lungo quale direzione portarsi quando si troveranno al bivio elettorale. Perché vi parlo di un'importanza storica? Perché per la prima volta domani, martedì, gli americani dovranno scegliere tra due modelli molto diversi di fare politica. Il primo ripercorre le tradizioni di sempre, con l'alternanza fra due partiti in guerra ideologica, in guerra dura, con idee molto diverse, però uniti dalla condivisione di un modello dell'alternanza, un modello che si identifica in valori di apertura nel senso più lato del termine. Il secondo modello, l'altra strada che si apre a questo bivio, consentirà l'arrivo a Washington, alla Casa Bianca, di un populismo che poggia sull'esclusione, sul razzismo, sulla chiusura. In questa situazione dunque di spaccatura anche geografica tra nord e sud, tra le due coste, tra il Midwest e le grandi aree metropolitane, che domani gli americani andranno al voto per scegliere quale sarà il loro futuro nei prossimi 4 anni. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani, grande giornata elettorale americana.